Ora ti racconto la storia della destra e della sinistra. È una favola sul bene e sul male. Odio. È con questa mano che Caino ha affrettato suo fratello. Amore. Queste cinque dita vanno dritte al cuore di un uomo. Gevis, la realtà è tra amore e odio, amore e odio. Amo la vita, odio la sfida, mi si impone ad una sola condizione. Odiare le persone, amare la contraddizione. L'odio è un'invenzione, ma l'amore è costruzione. Amo la vita, odio la sfida, mi si impone ad una sola condizione. Odiare le persone, amare la contraddizione. Parlare in eterno di un sentimento fraterno, di un sentimento che colpisce, ne esce da dentro lo sterno. Non è amore per nessuno se prima non è per te, ma l'amore per qualcuno non deve avere un perché. La solidarietà non richiede i documenti, a tutti i poveracci che hanno facce differenti. La mia felicità è spinta dai miei sentimenti. Vorrei portare amore come le ore degli amanti. Ami la tua patria, per resta ti uccideresti, ma fai gli interessi di chi adesso lo utilizza. Traumatizza, paralizza, analizza ciò che faresti. Realizza che vorresti abbattere solo i tuoi asti. Il tuo amore è stretto come un gruppo di immigrati su una barca, ancora avanti il confine che li ha ammazzati. L'amore non è il sesso e spesso può essere confuso. Tu puoi portarlo a letto ma dopo sarà un chiuso. Ragiona con la testa prima di usare il tuo coso. Non è amore dignitoso se recluso ed è morboso. La musica è il mio amore, con le affronterò ogni scazzo. È una scossa forte come quella su un Abruzzo. L'amore se ti sente non mente, non è sleale. Non è solo carnale, né strumentale o mentale. Non amavi la tua vita fino ai giorni in ospedale, dove hai capito che vale nel tuo stato terminale. Amo la vita, odio la sfida, che mi si impone ad una sola condizione. Odiare le persone, amare la contraddizione. L'odio è un'invenzione, ma l'amore è costruzione. Amo la vita, odio la sfida, che mi si impone ad una sola condizione. Odiare le persone, amare la contraddizione. L'odio è una prigione, ma l'amore è un'infezione. Esiste l'odio, l'amore sarà il rimedio. Ma se metti sotto assedio una città con tutti i siluri per affari militari, fare morti sicuri, il tuo popolo non lo curi. Il tuo odio crede di vari, moltiplicando se stesso come se fosse un riflesso. Una mancanza di rispetto ad ogni patto e compromesso. Tu cosa cerchi? Marchi e parchi del terreno. Ma il mondo è di tutti, anche di chi butta veleno. Ed è pieno del suo egoismo, crede il terrorismo per interessi scarsi che ci danno pessimismo. L'odio e intolleranza avanza verso il clandestino, si dirige dal diverso verso dentro il tuo destino. Quindi l'odio ostile incivile porta la bile, vile perché porta male, fomentando il tuo rancore. E se contagioso, pericoloso, mertoso, come se fosse un mafioso, spesso causa altro dolore. Odio le frottole, minacce trasversali, cerchio di il più debole che paga i suoi ideali. Troppi finti cavalieri sul campo più di un centauro, ma a me danno fastidio come a Berlusconi Vauro. Amo la vita, odio la sfida, che mi si impone ad una sola condizione. Odiare le persone, amare la contraddizione. L'odio è un'invenzione, ma l'amore è costruzione. Amo la vita, odio la sfida, che mi si impone ad una sola condizione. Odiare le persone, amare la contraddizione. L'odio è una prigione, ma l'amore è un'invenzione. Fine odio è messa a KO dall'amore.